Incontri di Gianfranco Fabi. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica e magari anche buon Natale, dato che ci siamo, ai nostri ascoltatori. Buongiorno e buon pomeriggio ad Alessandro De Nicola. Buongiorno, buon pomeriggio. Alessandro De Nicola, avvocato, senior partner dello studio Auric. Abbiamo iniziato con Sultan of Swing dei Dire Straits. È un motivo, come mai avvocato De Nicola? Ma perché fa parte di uno studio internazionale? No, quindi... perché la musica è bellissima, la storia raccontata è proprio una storia di una band che va on the road e poi c'è un passaggio molto bello che dice competition, you know my places, ed è una delle poche canzoni che ha la parola magica competition, concorrenza. Concorrenza, che è uno dei motivi di fondo del suo pensiero, in fondo, perché appunto vi ricordo l'avvocato De Nicola è partner dello studio Auric, quindi è uno dei maggiori studi legali mondiali, che ha anche in Italia una delle sue maggiori branch, ed è presidente dell'Adam Smith Society, che, come dice il nome, è un gruppo, un'associazione che si rifà ai principi liberisti di Adamo Smith. Esattamente. Ecco, ma un avvocato che difende il liberismo non è un po' in contraddizione? L'avvocato dovrebbe difendere le regole e il liberismo dovrebbe essere qualcosa che si muove in libertà. Beh, il liberismo non può vivere senza regole. Se uno pensa alla regola fondamentale del vivere umano, no? È pacta sunt servanda. Se uno non rispetta i patti, già non può esserci nessun tipo di liberismo. Se fossimo in un contesto in cui tutti quanti danno una parola e poi se la rimangiano, non ci sarebbe nessuna possibilità né dello scambio né della crescita e così via. Quindi la libertà di mercato vive attraverso delle regole. Qual è la differenza tra il liberismo e il dirigismo? È che la libertà delle regole di una società di mercato, di un'economia di mercato, è una società in cui le regole dicono i processi. I patti sono da rispettare. Invece, in una società dirigista si dicono anche i fini. Non solo i patti sono da rispettare, ma tu devi fare questo. La tua attività deve essere indirizzata a fare questo. Puoi fare o non puoi fare questo. Questa è una grande differenza. Le regole ci sono da tutte e due le parti. In alcuni casi sono di processo, in altri casi invece sono di sostanza. Ecco, in una classifica da 1 a 100, l'Italia che voto darebbe come qualità tra il liberismo e lo statalismo? Uno il migliore o il peggiore? Se diamo 50 siamo equi, no? Diciamo che 100 è il massimo, l'Italia la pongo tra 40 e 50. Quindi al di sotto di, sì, di una media, quindi è una città poco libera. È poco libera perché ci sono vari aspetti della poca libertà dell'Italia. Tanto per cominciare c'è il peso dello Stato, che è sicuramente eccessivo. Ricordiamo che il nostro Stato spende il 50% del prodotto interno lordo. Ricordiamo che incassa all'incirca il 48-49% del nostro prodotto interno lordo, in gran parte entrate fiscali, in altra parte entrate tipo le multe. E questo, bisogna ricordare, questo 48-49% è solamente sul PIL emerso, quello cioè che si fattura, quello bianco, perché poi naturalmente c'è il nero. Allora, se noi vediamo però l'incidenza sui poveretti che pagano le tasse, questo 49% in realtà diventa un 60%, e ormai penso che salvo la Corea del Nord, lo Zimbabwe e Cuba, nessuno ha il 60% sul proprio PIL. Quindi già questo è una cosa molto negativa. Un'altra cosa molto negativa è la grande quantità di regole che c'è. Noi in questa radio non devo spiegare quanto sia difficile aprire nuove imprese, fare nuova impresa, le regole cui bisogna sottostare, la difficoltà che pone la burocrazia. Le faccio, guardi, un esempio personale. Ci possono fare esempi personali? Assolutamente sì, se riguardano lei. Sì, riguardano me. Allora, io ho preso una casa. In questa casa c'è una parte del tetto che c'è amianto, Eternit, no? Quindi sappiamo tutti che l'Eternit fa male, giustamente. Più sta lì, peggio fa. Allora io ho già preso l'impresa specializzata per togliere l'Eternit dal tetto, è un'impresa autorizzata che già fa questi lavori, quindi è pronta per andare a togliermi l'amianto. Il comune, per dire ok, si prende 4 mesi. Quindi il comune sa, e non succede mai, ma mai che non dice di no, come potrebbe dire di no al fatto che si toglie l'amianto. Qui, e non succede mai che va a controllare l'impresa, come dice, vabbè, va a controllare l'impresa, non succede mai. Si prende 4 mesi, quindi prima di tutto l'amianto rimane lì a far danni, vabbè, per 4 mesi uno può dire non farà troppi danni. Secondo luogo, l'impresa che poteva incassare da me i soldi subito e metterli in circolo invece che andare a indebitarsi in banca, invece i soldi da me li incasserà quando avrà finito il suo lavoro fra 5 mesi. Ecco, queste sono le cose che sono incomprensibili in Italia. Beh, forse si possono comprendere se si pensa che per accelerare un po' le cose, al di là delle procedure burocratiche, qualche volta qualche bustarella potrebbe servire. E questo è peggio, perché più le regole sono complicate e discrezionali, più si incentiva la corruzione. E non c'è niente di più inefficiente della corruzione, perché genera concorrenza sleale. Chi corrompe ha un vantaggio nei confronti di chi non corrompe, che magari però avrebbe prodotti più efficienti del corruttore. Quindi un disastro. Quindi, semplificando, avremo un doppio o triplo risultato. Avremo delle procedure più semplici, delle procedure più rapide e soprattutto delle garanzie anche contro la corruzione, che è uno dei problemi della società italiana. È molto più semplice far rispettare regole chiare, poche, lineari, piuttosto che farne rispettare molteplici, contraddittorie e discrezionali. Questa è una regola appunto facile da esprimere, ma forse difficile da applicare. Con l'esempio dell'Eternit, guardi, glielo do... Gliel'ho servito sul piatto, visto come è capitato. Ecco, ma tra però, capo e collo. Ancora per essere provocatori, se le regole fossero semplici, ben applicate, non ci fosse corruzione, cosa farebbero gli avvocati? Ah, ma guardi che gli avvocati prosperano moltissimo proprio nei paesi dove c'è una maggiore semplicità di regole. Perché? Perché a quel punto si dedicano a assistere i clienti nelle fasi propositive, quindi nei contratti tra privati, che sono molto sofisticati e che hanno bisogno d'aiuto. Però un conto è assistere i clienti quando sviluppano la loro impresa, un conto è assistere i clienti davanti al TAR per aprire il capannone che poi per 7 anni non si riesce ad aprire. Ecco, lei mi pare che fortunatamente opera più nella prima parte, cioè sul fronte... Più coi privati, certamente. Più coi privati. Anche... Salvo quando non mi trovo a avere a che fare con le authority di garanzia. Anche quelle fanno parte comunque del sistema. Le authority sono un elemento che, se funzionano, garantiscono il rispetto delle regole. Sì, e devo dire che con tutta la burocrazia che c'è in Italia, a onor del vero, le authority probabilmente sono... In media, naturalmente poi la media c'è sempre quella del pollo di Trilussa, che per gli ascoltatori più giovani ricordo che Trilussa diceva che le statistiche dicono che abbiamo tutti quanti un pollo a testa, però c'è chi ne ha due e c'è chi non ce n'ha nessuno. Quindi le authority in media, e salvo il pollo di Trilussa, sono delle burocrazie che funzionano lievemente meglio del resto della burocrazia. Torniamo un po' all'inizio, come le è venuto in mente di fare l'avvocato? Ma guardi, in realtà sembra brutto dirlo, ma per default, nel senso che dopo che avevo finito il liceo la mia passione sarebbe stata fare scienze politiche, però in quegli anni, e stiamo parlando di inizio anni 80, scienze politiche era una facoltà obiettivamente un po' dequalificata, cioè sembrava un po' il refugium peccatorum di quelli che non avevano voglia di studiare e così via. La qualcosa non mi faceva piacere obiettivamente. La cosa che mi sembrava più simile a scienze politiche e che però avesse, come dire, una dignità di studio severo era giurisprudenza. Poi all'epoca io ho iniziato a Padova, che era una facoltà severissima di giurisprudenza, mentre contemporaneamente a scienze politiche c'era Toni Negri, quindi diciamo c'era una differenza notevole, e quindi ho fatto legge. Beh, in compenso io ho fatto scienze politiche nel 68. Beh, ma nel 68 scienze politiche era una facoltà, adesso poi è stata cominciata a essere distrutta nel 68, ma nel 68 era ancora la facoltà dei diplomatici. Ma poi si finiva a fare i giornalisti. Si finiva a fare i giornalisti, i diplomatici, cioè era una cosa diversa rispetto... Poi è rimasta comunque questa passione per il giornalismo, perché hai continuato a scrivere adesso su Repubblica. Sì, su Repubblica e L'Espresso, ma devo dire che il giornale per il quale ho scritto più a lungo è sicuramente Il Sole 24 Ore, ho scritto per 15 anni ormai, penso, Il Sole 24 Ore, con qualche intervallo. Diciamo, se c'è un giornale in cui mi sento a casa è sicuramente Il Sole. Repubblica e L'Espresso sono giornali molto divertenti, devo dire, sono molto molto divertenti. Vediamo poi anche questo aspetto dell'attività dell'avvocato Alessandro De Nicola. Incontri. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Ancora con la musica dei Dire Straits, continuiamo il nostro incontro con Alessandro De Nicola, avvocato, signor patron dello studio Oric, uno dei maggiori studi legali mondiali, presidente della Aranmore Society. Abbiamo visto nella prima parte appunto questa passione per il liberismo, per una società più semplice, certamente regolata, ma con regole chiare che permettano, che non ostacolino, anzi che favoriscano la libertà delle persone. C'è molto da fare, avvocato De Nicola, su questo fronte. Tra l'altro lei, oltre che presidente della Aranmore Society, poi tra un attimo ci spiega che cosa fa questa società, questa associazione, anche tra i fondatori di Fermare il Declino dell'amico comune Oscar Giannino, sì, esatto. che è una realtà politica. In questo programma parliamo poco di politica e quindi lo diciamo e facciamo gli auguri a Giannino e a lei per la sua attività anche sotto questo profilo. Ma allora torniamo al liberismo. Adam Smith Society, come è nata, che cosa fa, cosa si propone? È nata ormai 20 anni fa, il prossimo febbraio compie 20 anni. C'era un famoso manifesto della Democrazia Cristiana del 63, la DC a 20 anni, e sotto ci scrivono delle frasi irrispettose, quindi questo proprio se lo possono ricordare in pochi, mettiamola sì, così. Sì. È nata 20 anni fa da un gruppo di amici, era il periodo del grande cambiamento, il 92, il 93, il 94, Mani Pulite e così via. In questa grande area di cambiamento c'era anche una speranza di una maggior libertà economica nel paese, tant'è che è il momento in cui sono cominciate le privatizzazioni, è cominciato anche un po' di cambiamento economico, poi purtroppo una promessa non mantenuta successivamente. Con un gruppo di amici abbiamo fondato questa associazione, il cui scopo era proprio quello di diffondere i principi dell'economia di mercato, della concorrenza, della libera iniziativa. E alla fine, come tutte le cose che vengono fatte per passione, sono quelle che resistono di più, perché è pieno di fondazioni, associazioni, circoli che vengono fatti ad hoc per servire uno scopo o una persona o un obiettivo molto pratico, e dopodiché le persone si disamorano e non vanno più da nessuna parte. In questo caso, essendo l'associazione basata sulle idee, è 20 anni che va avanti. Nel nostro comitato scientifico abbiamo molti cari amici che sono probabilmente tra le persone che più rappresentano il pensiero del liberalismo classico in Italia. Si va da Alessandro Penati a Luigi Zingales, a Guido Tabellini, molti collaboratori del Sole 24 Ore, Lorenzo Infantino, Domenico Da Empoli. Insomma, devo dire, siamo anche molto contenti di coloro i quali hanno accettato di far parte del nostro comitato scientifico, e facciamo un'attività di diffusione di queste idee, quindi incontri, convegni, pubblicazione di questi atti di convegni, conferenze, e andiamo avanti. Abbiamo una serie che si chiama Regulatory Lectures, all'inglese, che sono delle lezioni, diciamo così, sui temi della regolamentazione, sia nel campo energetico che nel campo dei mercati finanziari e così via, e bene o male andiamo avanti da 20 anni. Ecco, quindi è un'associazione italiana, fa parte di un gruppo, di un network internazionale. Esiste un network, ma come si può immaginare in un network di associazioni liberali, è un network molto cooperativo e senza una centralizzazione diretta. Ecco, mentre lo studio legale di cui lei è signor patron, lo studio Oric, è uno dei più grandi studi mondiali, che nell'Italia uno dei suoi rami più importanti comunque. Sì, lo studio Oric ha più di 1100 avvocati, in Italia siamo un centinaio, è uno studio che è tra i primi 25 al mondo, e ha una caratteristica, che è uno studio nato a San Francisco e mantiene questo... Cioè, è il secondo business più vecchio di San Francisco dopo i jeans Levi's. Quindi a San Francisco, dopo la Levi's, la cosa più vecchia che c'è è lo studio Oric. E mantiene un po' questo approccio da San Francisco, quindi le persone in genere hanno un'attitudine un po' più cordiale e rilassata di quanto può succedere in altri studi internazionali. Ed è uno studio specializzato nel campo delle società, non si occupa societario, di... finanziario. Noi andiamo molto orgogliosi della nostra capacità in campo finanziario, tant'è che ad esempio il nostro studio è quello che ha curato i finanziamenti per il Golden Gate a San Francisco. Ecco, com'è diverso il mestiere di avvocato, pur nello stesso studio legale, in Italia e negli Stati Uniti? Beh, in Italia il rapporto con il professionista singolo è ancora molto è importante anche negli Stati Uniti, ma in Italia è proprio predominante, quindi si viene da uno studio legale strutturato come il nostro, ma perché si conosce il professionista, mentre negli studi internazionali, questo vale soprattutto per quelli inglesi, ma in parte anche per gli americani, ci sono dei clienti istituzionali, cioè dei clienti che da 30 anni vanno allo studio XY e continuano ad andare allo studio XY a prescindere dagli avvocati che ci sono dentro. Invece in Italia il rapporto col professionista è essenziale, dopodiché che il professionista abbia un grande studio alle spalle, certo, con sedi in tutto il mondo e quindi con know-how, esperienze complesse, nel senso che se uno va lì con un problema è probabile che qualcuno l'abbia già fatto in giro per il mondo, è importante. Però la prima cosa che si vede è il professionista. Ecco, in Italia si dice ci sono troppi avvocati, è vero? Ma io credo che probabilmente sì, ce ne sono troppi, però non lascerei, diciamo, all'iniziativa degli ordini professionali decidere se sono troppi o troppo pochi. Da liberale, appunto. Appunto. Quindi io credo che siano troppi, perché se uno vede gli altri paesi, non c'è un paese che abbia una densità di avvocati come il nostro, salvo gli Stati Uniti, paradossalmente. Però sarà il mercato e le dinamiche di mercato a sfoltire eventualmente il rango degli avvocati. Ecco, quindi un giovane che adesso si avvia all'università e si trovasse come lei qualche decennio fa a scegliere tra scienze politiche o giurisprudenza o lettere o scienze della comunicazione o magari ingegneria, a prescindere dalle doti personali che sono poi fondamentali, che uno dovrebbe fare quello che si sente più portato a fare, ma tenendo un po' conto del mercato, cosa dobbiamo tenere conto? Ingegneria e medicina sono le due che io suggerirei a parità di preferenze, perché poi una persona deve seguire soprattutto, certo, la sua vocazione. Quindi se ha la vocazione per l'archeologia, le lettere classiche, deve essere felice nella vita e probabilmente molto più contento di trovare un pezzetto di coccio di un vaso greco del V secolo e guadagnare meno, piuttosto che fare l'ingegnere o il medico o il grande manager. Quindi secondo me la vocazione personale è molto importante. Ma a parità di vocazione, ingegneria e medicina, decisamente. Ecco, sotto questo profilo, tuttavia, c'è da pensare al fatto che gli avvocati, quello dell'avvocato appunto, non è una professione che non risente dei cicli economici, mi sembra. Beh, un po' sì, in Italia il reddito degli avvocati è stazionario o in diminuzione da qualche anno. È anche vero che questo succede perché, essendoci tanti giovani avvocati in più, il reddito dei giovani avvocati d'ingresso, come sappiamo, in Italia è molto basso. Un neo avvocato in Italia probabilmente ha un reddito che sta sotto i 20.000 euro l'anno, quindi essendocene molto di più che arrivano ogni anno, questo contribuisce un po' a abbassare, però certo, non si può negare che il reddito degli avvocati negli ultimi 3 o 4 anni, in media la trilussa certamente non è migliorato. È migliorato. Come il paese, cioè gli avvocati hanno seguito un paese in declino. I grandi avvocati guadagnano bene, sì, è indubitabile, i grandi avvocati guadagnano bene, non c'è dubbio. Ecco, proprio che, dato che il guadagno non è l'unico valore, ma bisogna anche divertirsi nella vita, lei accennava nella conclusione della prima parte che si diverte a scrivere, sì. Vi ricordo, anche perché abbiamo collaborato molto insieme, certo, al Sole 24 Ore, i suoi articoli erano sempre alla ricerca di qualcosa di originale con molti spunti classici. Le piace la storia, la cultura, i personaggi mitologici anche. Molto. Io un'altra delle mie passioni, che appunto alla fine corrono il rischio di chi ha troppe passioni magari fa tante cose benino e nessuna benissimo, e questo può essere un mio limite, però una delle mie passioni sicuramente è la storia e la cultura classica. Quindi siccome cerco di divertirmi scrivendo, perché non è la mia professione principale, cerco di divertirmi, al Sole, soprattutto lei me lo consentiva, facevo questi articoli un po' divertenti in cui i personaggi mitologici replicavano situazioni di oggi. Oggi non lo faccio più perché il genere di articoli che faccio per Repubblica e l'Espresso sono più da editoriale e quindi è più difficile fare la cosa divertente. Ma sento molta nostalgia. Quando il sole mi rifarà ricominciare a scrivere questi pezzetti mitologici, sarò contento. Ecco, tornando alla mitologia, chi paragonerebbe Napolitano? Beh, Napolitano la paragonerei a una figura femminile della mitologia, e cioè ad Atena, perché è sicuramente tra gli dei è la dea della saggezza, Atena, e della cultura, dell'intelligenza, quindi Napolitano mi dà sicuramente questa impressione. E allora facciamo gli auguri di Natale anche ad Napolitano, ma soprattutto questa Italia che possa riuscire ad essere un po' più libera, guardando magari anche ai, non solo ai miti, ma anche ai buoni esempi del passato. Grazie mille e buon Natale a tutti e buon pomeriggio. Grazie all'avvocato Alessandro De Nicola, ricordo avvocato, signor partner dello studio ORIC, presidente dell'Armis Society. Grazie anche a Luca Cremonese in redazione, a Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.